parliamo. Su. E dove vuoi andare? Dove vuoi andare tu? Oh, Natalina, ma che l'amore si vede sempre. Ciao, bello bene, allora. Bello, anche a posto? No, negativo, ancora no. E come ti mai mi intenda, va? Natali. Emanuele. Ehi, dimmi Natali. Mi sono dovuto assentare perché ha suonato la 50, capito? No, mi ha trovato, ha detto che non... Ancora? Ancora non l'ho messo a posto l'antenna. Non ho avuto modo, capito? Alla prima occasione ho già preso tutto, però ancora no, negativo. Come mai mi ascolta allora adesso? Non lo so, adesso ti sto ascoltando. Sa giornata. E io domani devo partire in servizio. Devo andare fuori 22 giorni. E ok, dai. Ci sentiamo alle prossime allora, Manuè. Io ci metto in ben sentito comunque. E ciao Natali, alla prossima. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ci sono io, cosa vuoi? Hai? Ascolto, sì. Vabbè, Natali. L'antenna ha piaciuto te? No, negativo, non ho avuto tempo. Devo anche pitturare qua a casa un macello. Non ne ho tempo. Appena ho 5 minuti di tempo lo faccio. Devo piazzarne lui, devo piazzare l'antenna TV e l'antenna del baracchino. Quindi ci vuole tempo. Ti sento giù di coda, Natali, cosa vai? Come? Sono stanco. Stanco, sì. E cosa hai fatto? Me dirò. Sono stanco e poi c'ho questo dolore al femore che mi sta ammazzando. Allora, io sono bucato giù da casa l'altro giorno, per poco non mi alzo più. Sì, mi dica. Oltre che stanco sono anche a dolori, quindi sono già più di una settimana che mi fa male il femore sinistro, là. Cazzo, devo avere qualcosa infiammato, sicuramente. Tutti vecchi. Mi piace un altro fiammato. Non ne posso prendere, tacchettina solo posso prendere e non mi fa nulla. Oh, è entrato qualcuno, là. Questi vecchietti, dopo... Che basso di radio, che sei? Basso di radio, basso, come mai? Dica. Non funziona. Aspetta, aspetta, non ti muovere. Così va meglio. Beh, è cambiato la giornata la notte. Aspetta, non ho capito perché c'è un po' di rumore qua. Ho detto che è cambiato dal giorno alla notte, però poi ci si è riabbassato. Ah, sì. No, c'era il pulsante spostato, era quasi a zero. E quindi era per quello. Ho detto tutti i vecchietti, se siete... Ciao Natali, e allora, sempre tutto a dolori. Ehi, non mi sento bene, no. Ciao Gianfranco. Ciao, a quell'età, un ragazzino, là, non ti senti bene? Boh. Oi. Gianni è 20 anni più giovane, e anche lui ha dolori. Ehi, vabbè, siamo da rottamare, cosa vuoi fare? Gianni, e allora? Sai cos'è Gianfranco? Che io tutta la vita l'ho forzato lavorando. Non è come il tuo lavoro che è sedentario. Il mio lavoro si trattava di tirare il pedale e fare. Logicamente poi il fisico ti chiede il conto alla fine. Come sempre, torna, che palle, c'è l'elicottero andando e tornando, me ne sta buttando le antenne. E addirittura, perché così basso? Ha fatto l'andata, adesso è il ritorno, vediamo se passa. se passa un po' più in alto, perché quando è andato mi ha fatto vibrare i vetri di quanto era basso. Che è questo? È sempre il 118. Quelli non mancano mai, visto, quelli stanno molto peggio. Probabilmente c'è qualche incidente nei presci, qualche incidente grosso. No, cioè, il fatto è che c'ho l'aereo via qua, quindi appena lui decolla per forza passa sopra me, perché c'è l'aereo via che atterra lì in via Rockefeller, diretto. Passa sopra di me, poi arrivata a Sassari gira, fa un curvone e atterra. Ci mette pochi secondi e tu figurati che non fa in tempo a alzarsi dalla sedia per guardare, lui è già atterrato. Proprio una cosa velocissima. Ma dice che non sono più atterrato dove c'è l'Inps. Tutte dicerie, fino adesso sta atterrando. Io l'ho visto proprio mentre atterrava. C'era l'ambulanza che aspettava il malato, l'hanno caricato sull'ambulanza e portato all'ospedale. Visto quanto è veloce? Sì, ma se l'ingegnere che ha fatto l'ospedale avesse pensato di mettere anche l'ascensore per portare giù gli ammalati, avrebbero portato direttamente dove c'è l'atterraggio per il soccorso. Invece non c'è ascensore, non si può fare nulla. E non è proprio l'ascensore, no. Lasciamo perdere che è meglio che te ne scappa la risa di queste cose, per carità del cielo. Oi, Natalino, non si può fare né cacio né lana, vero Natalino? Ah, è riuscito. Sta scesa l'antenna, ogni tanto ne ha una. Tu la senti sotto la propagazione? Adesso, stasera, tutta la sera lo senti. Si sentono che parlano. Al piano di sopra invece abbiamo gli anziani proprio rincoglioniti col violino, la chitarra, mamma mia, non c'è più pace. Tu c'hai gli anziani rincoglioniti, io c'ho quelli che fanno ballare i candelieri, tutta la sera, brum, a tardi. E vabbè, ancora una settimana e quelli finiscono. Questo invece con la propagazione che c'è durano tutto l'anno. Oi. Poi cambi canale e ritrovi lo stesso, ci sono gli altri, ma non puoi neanche lasciare gli apparati in ascolto. Mannaggia, prova ad arrivare la propagazione dall'altra parte, dall'Italia, e invece arriva la propagazione dalla Spagna, dalla Francia. Oi. Sì, la Francia e la Spagna in questo periodo, le Tenerife, so quella zona lì, chiedo collegato le Tenerife. E in questo periodo c'è la Francia e la Spagna, hai ragione, ma c'è stato anche qualche inglese, però 27 non è la radio amatoriale. Sì, dipende. Ma dice oggi, meno male, sembrerebbe un pochettino più fresca, la temperatura sta scendendo, c'è tutto aperto come al solito, c'è sempre il sole, c'è un po' di vento che è da, perlomeno qua, il vento da dov'è? Beh, mi sono incastrato, buonanotte, aspetta che non mi si muova la sedia. Sembra da nord, un mestralino leggero. E ha piovuto anche stamattina, stasera ha piovuto di brutto. Se fa così già va bene. Non per chi va in vacanza in questo periodo. Sì, fissati siamo le vacanze. Noi, se continua questo passo e con quelle temperature, altro che vacanze, anche in spiaggia si potrà andare perché li bruci. Poi io riesco a vedere se è rientrato Natalino. Oh, non è pure Natalino, non è, ce la sa bene. Come diceva quello, la vicaia è garrogna. Ha detto che avevo i furti al fermo, ma che non si ad operare anche lui. Oh, c'è tutto, tutti quelli che conosco oramai sono tutti messi male, io compreso. Quasi quasi facciamo un coso, una specie di pensionato e ci buttiamo tutti dentro. Per carità, tanto da in ospedale non puoi andare, dal medico non puoi andare, ma davanti anche i medici di famiglia, sono tutti per appuntamento, se non ti ricevono. Quindi al pronto soccorso non ne parliamo, meglio passarci il più lontano possibile. E fatto in geriatria. E come ci arrivi? Neanche di lì ti mandano più, non ne vogliono. Per carità, già stiamo andando veramente, ci davamo prima, adesso proprio, come diceva quello, abbandonate ogni speranza o voi che entrate. Da me non mi possono avventare, i dolori forti a me sono passati, dopo che ho fatto l'operazione non ho più avuto dolori. Però cavolo, prima già ho sofferto, prima e dopo l'operazione, prima di 3 mesi non mi sono ripreso. Sempre ossa, articolazioni, quelle cose lì. Il femore, ho operato la testa del femore, mi hanno messo la bruce. Come è andata a finire invece l'altra, quella che del piede praticamente? No, del piede sono stato 5 anni che giravo da un dottore all'altro, non ne ho mai cavato piedi. Poi un'amica che fa loro l'argento colorare mi ha curato con quello lì, dopo un mese mi è passato. Sono stato 5 anni che avevo un vulcano nel piede, usciva a pulsi di tutto e di più. Con quello lì, con loro colorare, è riuscita a curarlo. Visto. A volte bisogna stare lì a girare, perché oramai neanche loro ne sanno più niente. Adesso poi dentro negli ospedali ci mettono anche quelli che non sono neanche ancora medici, quindi c'è poco da stare allegri. No, un'amica mia che lavora presso un dottore dove io sono andato a curarmi, che poi è andata in pensione, ci siamo trovati il maestro, quando gli ho detto che mi avevo curato con l'oro colorale, mi ha detto i dottori lo sanno, però siccome non è nella medicina, loro devono fare andare avanti la medicina, non te lo nominano nemmeno quello, capito? Poi che se la prende a coso sei tu, però i dolori mica ce l'hanno loro. E vabbè, se ne sentono tante, per carità del cielo. Vabbè, è così. Dai, l'importante è andare avanti. E come diceva quello, tirare a campà. E andare avanti nel migliore dei modi, però Gianfra, no? E tutti i bursi vai. Lo so, ma purtroppo si sanno quando piano piano si avvicina ai 70, cioè gli acciacchi iniziano già quelli un po' rognosi dai 60, quando poi ne hai all'incirca 67 arrivano i cosi, no? Le bestemmie dell'INPS, anche di lì devi stare attento. Se riesci a arrivare a 70, poi se te la scampi forse qualcosa combini, ecco. Però tutti quelli che sto ascoltando, eccetera, che sono in quell'arco d'età 60-70, è un casino, guarda. Un casino anche perché poi non sanno più andare dove curarsi. Ormai tutto a pagamento. Se vuoi fare qualcosa, se no neanche ti rispondo. Ma se ti mandano a Cagliari, ti mandano qua, ti mandano là, a Nuoro, fare gli esami, ma stiamo scherzando. Prima venivano dai paesi, venivano qua, adesso siamo noi che andiamo là. Ma io dico, almeno fossero onesti, ti dico, Nasco, non ce ne frega niente, gli esami non te ne vogliamo fare, te li facciamo solo a pagamento, che siano onesti, cioè te lo dicano in faccia, che invece no, stanno lì a cincischiare, farti perdere tempo, chiami tra un mese, tra due mesi, non c'è più posto, tra due anni, tra tre anni, poi se fai il pagamento te lo fanno il giorno dopo, molti, capito? Perché non c'era posto questo. No, il giorno dopo, allora io devo fare la visita cardiologica, ho telefonato al cardiologo e gli ho detto se aveva la convenzione con la SL, lui mi ha detto sì, ma nel momento non ci abbiamo posti. A pagamento anche stasera alle 3. Sono andato alle 3, non c'era un'anima viva a dire che c'era una persona, e lui ha detto che poi si erano tutti occupati quelli della SL, capito? Per farsi pagare, sono bastardi. Ti dico anche quanto è la visita, dovrebbe essere dai 200 ai 250 euro, giusto? No, io ho pagato bene, dico la verità, ho pagato sulle 100 euro, però non ho fatto l'eco al cuore, ho fatto solo l'elettrocardiogramma. Freddo, l'elettrocardiogramma. Sì, è utile tutto quello che ti pare, però se manca l'eco è come non farne. Lasciamo perdere per carità del cielo. Prima per le visite, quando lo dicevi visita cardiologica, l'eco era pressoché obbligatorio, poi c'era l'eco color, Doppler, eccetera, presso tranquilli. Oramai mi pare che è tutto un casino. Ma io lo stavo facendo solo per prevenzione, non per carità, grazie a Dio non avevo bisogno, però per prevenzione ogni 6 mesi li faccio questo esame, capito? Sì, addirittura ogni 6 mesi lo fa chi ha una malattia accertata, e neanche a volte te l'hanno una volta all'anno. No, io sono diabetico, quindi lo faccio per quello. Ah, sì, non me lo ricordavo questo. Sì, per chi ha il diabete, sì. Infatti c'è un collega che l'hanno operato, diabetico, è sparito dalla circolazione. Porca la miseria. È già 3 mesi malato, è uscito dall'ospedale. E forse anche, no, cosa 3 mesi? Sarà 4-5 mesi. Che non lo vedo. Però è sparito. Ho fatto l'operazione alla Cistifellea, no? C'era dei calcoli che la faceva già di quel colore, no? La faceva marrone praticamente, e quindi hanno detto no, qua è da togliere. Ho fatto l'operazione, è sparito. E secondo te ha acabato l'operazione, che cosa? Non lo so, non riesce a riprendersi. Lui è diabetico, lo stesso fa l'insulina, no? Quindi evidentemente l'ha presa male o c'è stato qualche intoppo, che lo sa. Insomma, un casino, dai, come sempre, quando sei sfigato già lo sai, no? Ma infatti deve essere proprio che da questa di sfiga, perché io operazioni, grazie a Dio, ne ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 5 operazioni, sono sempre andate bene, mi si è subito guarito tutto, eccetera. Ti è rimasto qualcosa di tuo ancora? Ho tenuto il cavallo tutto. No, cavallo no, aggiunto magari, perché 2 operazioni le ho avute agli occhi per la cataratta, e ne ho fatte 2 operazioni, anzi ne ho fatto di più perché ho fatto anche calazio all'occhio, quindi ho fatto 2, 3 solo agli occhi, poi ne ho fatta una al menisco, vabbè, quello mi hanno tolto, sì, quello me l'hanno tolto, il menisco l'ho a parte perché era spappolata. E poi gli ho fatto 2 ai femori, tutti e 2 femori, c'ho la protesi. Ma adesso sei tranquillo, sì, cammini, non dico di correre, però insomma. No, corro pure. No, adesso mi sono ripreso al 100%, già fa. prima vabbè, ho avuto delle difficoltà eccetera, però adesso grazie a Dio mi sono ripreso bene, corro anche col cane, tranquillo, è come se non avessi lui. Il cane adesso dovrebbe anche lui avere la sua età, no? 8 anni. È un bel po'. Per il cane, secondo te che cane è, sono già molti. Quindi anche lui vecchietto fa piano come il padrone, così. No, no, è molto atletico, il mio cane gioca, è atletico, corre. No, è asilo, il mio cane è asilo, non è mugio, eccetera. Se tu gli lanci la palla, va a correre, la prende al volo, è atletico come cane. Meglio così, meglio così. Poi l'avevi risolta quella questione lì, adesso sei tranquillo in pensione, no, ci sei riuscito. No, sono sempre in pensione di invalidità. Ah, quindi già è vero, tu non c'hai l'età per andare in pensione quella normale, diciamo, di vecchiaia. Allora, io ho l'80% di invalidità, mi spetterebbe 5 anni di scivolo prima. Però io ho fatto la domanda e me l'hanno bocciata. Ho messo l'avvocato, adesso vediamo cosa succede, perché per legge mi spetta. E ci mancherebbe altro. Lo scivolo ti spetta, cioè scivolo, lo chiamo scivolo, ma è un scivolo, in realtà sono 5 anni che sono formati da ogni mese sono 2 giorni, credo, fino a raggiungere i 5 anni, ma tu avrai l'anzianità sicuramente lavorativa e quindi c'hai 5 anni. Quindi poi l'invalidità ce l'hai, quindi ma questi sono ubriachi, cosa sono? Cioè la legge no, eh? No, ci tentano sempre, ma è anche l'avvocato, ci tentano, qui si pagano tutto anche dei arretrati, capito? Da quando io ho fatto la domanda, sì, da quando me la danno, si pagano gli arretrati. Sì, va bene, ci tentano, ci provano tutto quello che vuoi, che già quello comunque, il discorso è un altro, è un po' come quello del TFR, no, di quando te ne vai, per voi non so, ma per noi ce l'hanno dopo 2 anni, se ti fa male anche dopo 5, cosa te ne fai quando raggiungi, dunque si va a 67 e te l'hanno dopo 2 anni, e ne hai 69 e poi se ti va male arrivi anche a 71, cosa te ne fai di quei soldi poi a quell'età? A comprarti la pappetta, a comprarti i soldi occorrono, diciamo, adesso sei giovane, quando ti devi fare a casa, ti devi fare quello che ti pare piace a te, perché sono soldi tuoi versati. E questi, però sai adesso cosa c'è? Se li vuoi subito il TFR, fai in banca, te li danno subito, però non so quanto te ne grattano di interessi, capito? Hai formazione? No, allora me l'hanno pagato subito. Allora, da noi c'erano 6 mesi di tempo per pagarcelo, e a me me l'hanno dato subito. Ho scelto io che me lo dessero mese per mese, metto subito, lo pagavo tutto in una volta, ho detto no, datemi mese per mese, se no poi me li spendo. E mi davano 2.200 euro al mese. Fino a raggiungere la quota maturata. Esatto, questa è la mia ditta, poi la ditta che hanno preso dopo per mantenere il personale, per tenere il personale, ci ha bruciato TFR, fede, tutto quanto, perché era un delinquente, questo qui l'hanno arrestato perché era in mezzo alla 'ndrangheta e adesso si è aperto un'altra ditta sotto un altro nome e non ci ha pagato un cavolo. C'è gente che li deve pagare anche i giorni che ha lavorato. A me, grazie a Dio, piano piano io sono stato fortunato, perché quando ero in malattia ho finito tutta la malattia, mi hanno dato tutte le ferie, tutti i riposi, quindi ho messo tutti sfruttati quelli lì. Invece c'è gente che non ha sfruttato niente, c'ha giorni di permesso, giorni che ha lavorato, eccetera, ha fregato a tutti, capito? A me mi deve dare sulle 16.000 euro. Sempre in giro sono questi qua, imprenditori di farabutti proprio, per carità, cioè, vivono così, capito? Vivono così, rubando a destra e a sinistra, come si chiamavano i nostri nonni, la davano un termine, su Ciasango, così. Io sono andato anche all'Inps per vedere se riuscivo a recuperare, perché c'era una voce che diceva che andando all'Inps si prendevano il 20% e poi non essero recuperabili. Ho detto, meglio di niente, vado all'Inps, mi prendo quello che c'è e basta. Sono andato e mi hanno detto, no, non possiamo dare nulla, perché se non dichiara fallimento lui, noi non possiamo darle nulla. Allora i soldi ci sono, perché ci sono, però se non hanno il via da parte sua non ce li possono dare, capito? E quella è la fregatura, capito? È come avere la cassaforte e non avere la chiave per aprirla. Anche l'Inps sono un po' strani, si fanno un po' le leggi alla loro cosa, perché comunque chi paga i reparti e ferri è il datore di lavoro. E c'è tutto un coso dietro, per carità del cielo, guarda. Per carità. Adesso vediamo come va a finire. Poi ci sono troppe tasse su questi, stipendi, su pensioni. Hai visto la benzina adesso? Se ti sei fatto un giro, sembra che siamo messi tutti d'accordo, tutti lo so prezzo, che sfiora quasi 2 euro. Vabbè, già c'ho poco benzina. Io vado a gas, già sono abbastanza, il gas già costa abbastanza poco, non è così caro. Però diciamo il discorso di poco fa, il principale è quello che deve pagare il principale, infatti il principale a me mi ha pagato sino all'ultimo centesimo, poi ci aveva staccato dalla ditta e ci aveva messo con questo qua, con questo che è un'agenzia, e lo stavano facendo per risparmiare qualche cosa nelle tasse, ma loro hanno detto, quando hanno fatto la riunione hanno detto, noi proviamo, se non va bene lo mandiamo via, dopo un anno ce lo mandiamo via e facciamo il contratto per un anno. E così hanno fatto, però poi ha continuato perché ha visto che stava andando bene, capito? Che ci pagava, ci dava fede, ci dava tutto, sembrava una persona onesta. E poi ha giostrato, capito? Ha giostrato tutto di colpo. E vabbè, e questa gente qui che già viveva. Adesso lui con questa smeralda c'è una ditta nuova con un altro nome e se ne sta fregando di tutti. Finché no, non lo denunciamo di nuovo, perché questi non è che danno il vizio. Quanti ne sento gente che va a cercare contributi e non ci sono, insomma, casini di tutti i generi tipi. Sempre truffando il poveraccio. Ehi, anche ci prendiamo siamo sempre noi, degli sbagli loro ci prendiamo sempre noi. Io ti dico la verità, a me ho calcolato anche 42 anni di contributi, perché io pensavo che erano 36, invece avevo calcolato male, perché avevo lavorato anche in un'altra ditta e quindi mi hanno calcolato anche qui. Io nemmeno ci pensavo più a quell'altra ditta, pensavo solo qua. E mi hanno calcolato anche quelli, sono 42 anni di contributi che ho fatto. Quindi mi hanno calcolato quelli più la pensione di invalidità, è una pensione onesta, diciamo, anche se non altissima, ma onesta. Vabbè, se non c'è spese, se non c'è mutui, ci campi anche con 1200 euro, eccetera, ci campi. Sempre che non c'è da mantenere qualcuno, se no allora il discorso cambia, capito? Le cose da pagare ci sono sempre, no, non ne ho di roba da pagare, grazie a Dio ci ho tutto pagato, c'ho la casa mia, la macchina che è la mia, pagato e tutto. Quello che c'è da pagare è condominio, luce, acqua, le solite spese fisse che ci sono, telefono, e quelle cose poi l'ho pagato lo stesso. Poi ti capita matrimonio, devi fare un regalo, questo mese me ne sono capitati due di matrimonio. ma se vuoi risparmiare non ci riesci, dai. Non ci riesci mai. Quando ci mettete a risparmiare in qualche cosa c'è sempre qualche nippo, o il condominio che deve fare dei lavori straordinari o questo o quell'altro. C'è sempre da sborsare, sempre. E chi non ne ha di spese? Sempre ci sono, le spese fisse ci sono sempre già fra. Uno che è in campagna con me, te non c'ha condominio da pagare, quello già una spesa in meno. Quelle 100 euro in meno al mese te le risparmi. Sì, ma guarda, non è quello che fa paura, perché se sono 100 euro fa anche bene. Il problema è adesso, quando ci si mettono, ad esempio quando si sono messi adesso a fare le facciate eccetera, di lì corrono il rischio che fossero pagare, e quando sono lavori da 60.000 euro, 80.000 euro, e magari siete in 8, siete in 10, quello che è, e poi si parla di dare cifre importanti, che insomma da qualche parte devi togliere, capito? Gente fregata con le facciate, con i pannelli solari, che hanno bloccato lavori perché c'è qualcuno sempre che non paga, tutte quelle cose lì. Sui condomini ci vuole molta, molta fortuna, perché se sei con persone tranquille, serie, allora si riesce a navigare, però ce ne sono molti che non riescono neanche a pagare quello mensile, capito? Figurati quello straordinario, quando ci si intoppa in qualche avventura strana, tipo facciate o quelle cose lì. Vabbè, quelle cose lì stavano facendo con 112%, adesso le hanno bloccate, perché sempre ci sono i furbi che rovinano tutto. C'era quello che faceva il furbo, ci metteva due palazzi, ne faceva uno e si incassava i soldi del materiale, eccetera, eccetera. E vabbè, comunque, si va avanti, già fra. Quando succede, si tolgono i soldi a buonanotte, quando ci sono, e quando non ci sono, agitano, errate. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Vediamo se è rientrato Natalino. Natalino. Ma ci rientra, no, che non ha gamba, si vedeva che non stava bene, stava parlando in un modo moscio, infatti ha detto cosa c'hai? Ma come sono tutto dolore, sono stanco, buh. Però se si butta a terra così, poi va sempre peggio, capito? Deve reagire, deve reagire. Non so, ma quando uno sta bene, già fra, io c'ho ragione. Quando non stavo bene, lo so per cui incazzo, perché non riuscivo manco a camminare, capito? Se per cui incazzo, con il baracchino acceso, parlavo al baracchino, ma non lo ammetto. Purtroppo è così, poi se non... In questi ultimi anni ci hanno tolto tutto, quindi a chi ti rivolgi? Io mi dico, sono andato in pensione e il primo appuntamento ce l'ho giusto per conoscerci il 18, con questa granca in faccia ho visto, tutto online devi fare gli appuntamenti, solo per conoscerci, a quasi un mese di distanza da quando l'ho cambiato, figurati. Io ho cambiato il medico, sono andato in farmacia, ho cambiato il medico perché mi è andato in pensione, però è restato nello stesso studio perché lei avrebbe voluto continuare, ma la SL non gliel'ha permesso perché aveva già 70 anni e lei ha detto che se la sentiva ancora, siccome lì la sua professione la può continuare a fare senza però essere la SL, allora fa le ricette, fa queste cose qua, il medico che è subentrato al posto suo. Però a me quel medico lì non mi piace, perché gli ho chiamato anche i carabinieri, e me ne sono andato da un altro che è veramente bravo, fa tutto quanto via WhatsApp, gli mando i medicinali che mi servono, non faccio manco un filo, mi manda le ricette, ma le farmacie me le prendo. Sì, anche io ho dovuto fare l'applicazione e tutto, adesso vediamo, però almeno in faccia voglio sapere chi è, perché non mi ricordo neanche chi è, figurati. Vabbè che io ci vado poco, perché mi servono poche cose, tanto lo so che oramai non, sanità non ne abbiamo. Io sento gente, guarda, io sono dovuto scappare, letteralmente scappare dalla disperazione, perché oramai non ce la faceva a sentire le persone chiamare che erano disperate, non sapevano neanche i numeri di telefono a cui rivolgersi. Era una penitenza ogni giorno. Poi gente che non risponde, gente che non esiste più, un bordello. Poi è per l'appuntamento al CUP, per vedere se ci riesci. Devi stare tutto un giorno cercando il telefonare, per beccare l'ora di pranzo, perché telefonano di meno, verso le 2 così, qualche volta li ho beccati a quell'ora, perché se no devi stare tutto il giorno facendo il numero e sempre occupato. Perché non ce n'è, perché già negli ambulatori non ti rispondono, perché non c'è personale. Poi il CUP non c'ha neanche i numeri a cui di riferimento, quindi c'è un Sant'Arrangiati micidiale, guarda. C'è, ti costringono letteralmente a prendere un appuntamento a pagamento e buono salsiccio. C'è una disorganizzazione che non vi rompere a dirlo, Puglia, è perché c'è mancanza di personale, è un casino, c'è anche la ragazza di mio figlio che lavora lì al CUP e ha detto un casino, c'è gente che deve fare visite oncologiche, gli appuntamenti sono per mesi, che secondo me che è malato di tumore, che si deve stare a aspettare mesi. Sì, ma infatti è una situazione veramente fino a 10 anni fa che già iniziava ad andare male, era immaginabile arrivare a questi punti di non avere assistenza. È veramente il massimo, per carità. E questo è dovuto anche al fatto, tieni presente, che c'è una dirigenza strapagata di personale, poi che non sa fare niente. Molti dirigenti che mettono a comandare dappertutto e non solo in sanità, eccetera, ma non hanno alcuna esperienza, sono pasticcioni, rimangono lì 3-4 anni, non si fanno i titoli, si fanno anche i soldi ovviamente, e poi si andano a far danno da un'altra parte. Ma lo sai quanti ce n'è? E anche in banca. Io ho visto uno in banca che chiedeva al collega com'è che si fa questo qui, il collega ha detto non ho capito, io devo fare il mio, non è che posso stare a spiegarti ogni volta dove si fa la roba, dovevi farti dei corsi di perfezionamento se non sai fare le cose, ha detto un collega davanti a me. Ma perché gente è messa lì, capito? Anche molti dirigenti sono messi lì, mica hanno la capacità, la responsabilità per stare in certi posti. Sono messi lì dal politico di turno che deve far piacere a qualcuno. Metto lì perché a un certo grado di dirigenza sono soldi, ti fai la carriera e poi vai a guardare, c'è gente che naviga anche oltre 10.000 euro al mese, tranquillamente. E poi questo qui si è rivolto a me, mi ha detto, ma te ne immagini, hanno messo per i corsi qua, non sa fare un cavolo, hanno messo qua alla recensione per la gente, a ricevere la gente, e non sa cosa fare. Ogni volta a chiedere a me, ma adesso mi sono scocciato di fare il suo professore. Vabbè, poi dipende anche dal lavoro, un po' l'assistenza la devi dare al collega, li devi formare. Poi se quello non capisce, ce ne sono molti che non capiscono, è tutto un casino diventa. Cosa avete che già? Siamo in un'epoca tutta particolare, bisogna sopravvivere ormai. È brutto che stiamo sopportando noi queste cose, io penso ai miei figli, che cosa dovranno sopportare quando non ci siamo più noi. fiumi. Per carità, facciamo quello che va bene, tutti questi terremoti, cubifragi, incendi, questo, quell'altro. Un casino, sembra una catastrofe. Non sembra, è una catastrofe. Vedrai, prima sembrava così lontano il 2030, invece mancano appena 7 anni, 7 anni e sappiamo di che morte moriamo, per carità, perché la cosa sta aumentando, hai visto anche nel Pacifico stanno sgombrando non so quante migliaia di persone in quell'isoletta perché oramai il mare se l'ha mangiata. Dove li sbattono, che perdono tutto, casa, attività e quanta ce n'è, ma neanche te lo dicono, oramai sembra la normalità che tu ti devi trasferire perché il mare si stava prendendo tutto. Ma non parliamo poi degli uragani, perché anche negli Stati Uniti, che dovrebbero essere ricchi, però la povera gente c'è anche lì, se ti è fatto la casa, arriva l'uragano, quello che te ne porta via tutto, sempre che non ti ammazzi pure. E poi come fai? L'assicurazione su quegli eventi già lo sai come sono, no? Costano carissime e non tutti se la possono permettere. Sì, non solo li portate via le antenne, li portano via il tetto, cazzo, casino. Ho visto scoperchiare case dalle trombe d'aria, dagli uragani, le tornate, ci sono tutte queste cose qua. In America c'è sempre stato proprio questa storia del tornado, dell'uragano, cosa che qua non si sentiva prima. Adesso anche qua ogni tanto si sente la tromba d'aria. No, no, non è il problema dell'uragano o meno, il problema è che prima c'era con step di 10 anni, adesso lo step è a livello di anno, quindi ogni anno ce ne avevano 3 o 4, ed è esasperante la cosa, capito? Non è che stai ogni anno facendoti una casa. Anche da noi, tu guarda cosa è successo, salivano all'alluvione, come è successo in Emilia, ci hanno buttato via, chi c'aveva la macchina, piccola, grande, costosa, economica che fosse, perduto tutto. La situazione, se non è specifica, per quell'evento non ti dà niente, fa una grandinata, quando meno te l'aspetti, la macchina ce la butti via. Perché come fai? Sembra colpita da pallottole. È un casino, diventerà un casino. Dove andremo a finire, chi lo sa? Chi lo sa dove andremo a finire? Purtroppo la natura si sta ribellando. Lo dicevano che alla fine poi si ribellava contro l'uomo per l'inquinamento che stava facendo e niente. Chiudevano gli occhi, si tappavano le orecchie e continuavano a fare quello che stavano facendo, fabbriche e tutto quanto. E adesso ne abbiamo la risposta. Che ci piange sempre il poveraccio. È come se non bastasse, sono pure messi a fare una guerra. Per carità, guarda, è una cosa veramente micidiale. A proposito, ti volevo chiedere, ma poi qua in tutta la 27 eccetera, ma c'è sempre traffico, devo anche qua è una cosa rara oramai fare una chiacchierata. Oh, adesso è diventato raro, d'estate già però non sai come tutti escono, vanno a fare la passeggiata. No, non sta entrando più nessuno, infatti io sono riuscito in un arco di canto dove faccio i concerti di canto e sto lì perché tanto accendo la radio, le stavo facendo caricare un po' perché si scaricano i condensatori, poi alla fine ci si rovinano le radio. Le stavo accendendo per caricare un po' i condensatori anche perché il gas si stava spegnendo 3 metri di frequenzimetro, poi ho visto che come ha caricato il condensatore non lo fa più. È quello lì, a fine di lasciarla ferma la radio si basta. Beh sì, se c'hanno già una certa età per conto loro è così, ma poi oramai c'è anche il problema di fare qualcosa, capito? Che ne so, ti metti a provare un microfono, non c'è nessuno, devi parlare lì come tu mancanti, a rasura, a registrarti, rimandarti e vedere un po' se funziona, poi per che cosa, per parlare con nessuno, come diceva una volta, parla col muro, e noi veramente ci stiamo parlando col muro. E poi ti fa un giro per controllare i ripetitori di fuori e vedi che fuori comunque ci sono tanti QSO eccetera, magari sono tutti in digitale, però comunque ci sono. Qua invece siamo sempre i soliti due, prima eravamo in 3-4, adesso siamo in 2, sempre andando e riducendoci. Vabbè, ma nei 40 metri gente ce n'è, vero Giova? Sì, ma non puoi stare di lì a... sai come funzionano nelle KF, hanno tutti la mania della potenza e quindi chiunque ti catrigheggia, diciamo così, diventa già il più forte, quindi o c'è antenne, antennone, compagnia cantante, perché oramai c'è la cultura che se non arrivi oltre il 9 non ti conosce nessuno, quindi è così. Io faccio ascolto sui 40 metri, ho visto che ci sono anche dei dialoghi tipo salotto, così, che fanno, qui ci sono i conques, che a me quelli non piacciono perché danno il segnale e poi passa all'altro, è una cosa un po' monotona, invece ci sono delle frequenze dove fanno proprio il salotto, parlano, come facciamo noi adesso. Sì, beh, ma quelli essenzialmente sono quelli vecchi, diciamo vecchi come noi, tra virgolette, adesso non so quanti anni hai tu, però sono quelli un po' abituati anche a parlare in radio, a farsi una chiacchierata, passare un quarto d'ora così chiacchierando, però è tutto un intasamento, un casino. Sai, non è molto... Normalmente quelli poi sono in 160 metri, di lì c'è, anche se la banda è molto stretta, però insomma a volte senti dei questo interessanti, anche in 80, che sono quelle meno trafficate, ma già in 45 è un bordello nero, quindi boh. Non ha, poi se sali più su ovviamente c'è tutto la maranana dei DX, dei contest, dei trick and track, contest dell'Umacone, contest della Cioghizza, insomma tutte quelle cose lì. Sì, ho ascoltato qualche volta, ascoltato, mi diverto a ascoltare, ma non mi sta più prendendo come prima mi piaceva di più. Mi sto stancando perché vedo che c'è molta monotonia, c'è poca gente, capito? Alla fine poi ci stacchi. Si è comprato anche apparecchi nuovi e cosa, perché cosa poi? Uno me l'ho riveduto, perché tanto è inutile che ne abbi 50, per cui usare sempre uno. Dillo a me, che sono tutti in linea, tutti collegati con relative antenne. E poi non servono a niente, diciamo ciò che a me. Oggi come oggi se uno entra, la cosa che posso dire è magari ti va di va, perché sono pacco di soldi per far che poi. Se uno ha una risposta all'hobby che ha, i soldi li spende volentieri, come la pesca, come la fotografia, quegli hobby che ho io sto dicendo, fotografia, pesca, sono tutti hobby dispendiosi, come anche la radio è dispendiosa, perché poi non ti accontenti mai, magari vedi quella radio lì che ti piace di più, te la prendi, l'altra nuova che è uscita che fa certe cose che l'altra non fa. Insomma è un hobby dispendioso, però ci fosse il tanto già fra, è quello che non c'è. Quello che infatti ti sto dicendo io, le mie radio sono tutte nuove, avevo cambiato tutta la stazione da pochi anni, quindi sono tutte apparecchiature ancora in vendita e abbastanza care anche, però non serviva a nulla, cioè non serviva a niente, non perché non servono le apparecchiature che sono la maggioranza anche a livello professionale, non serviva a niente perché dopo le usi, non fa nessuno, è tutto un casino, a me il contesto non mi piace, quindi no, non c'è più il casino, già quando c'è il casino a me piace fare le questioni tranquilli, fare con la mezz'oretta e poi arrivederci e alla prossima. Ma è un bordello, capito? Infatti, è così. Ma magari l'inverno che non si può uscire, siamo tutti rientrati, poi ritorniamo tutti. Il problema è che già un anno che stiamo dicendo così, poi d'inverno già entra, passa l'inverno e diciamo, ma forse d'estate che sono tutti in ferie qualcuno già entra e non entra nessuno a te, quindi ma già mi sa che oramai no, non si imbatte più, dai. Perché chi ha passione come ce l'abbiamo noi, io parlo anche di me, che sono oltre 40 anni, se non di più pure, che ho la passione del radio, non ce n'è più di questa gente qua, tutti con il telefonino, tutti su internet, vanno anche a conoscere le donne su internet, adesso io prima se dovevo rimorchiare andavo a ballare e rimorchiavo così, adesso vado su internet a cercare le donne e poi chi ricapita lo si sa. Vabbè, internet è una cosa bella, ma si è usata anche in un certo modo. Infatti fuori, ad esempio, io sto notando che ci sono molti QSO, però sono tutti in digitale, perché il digitale ti consente di avere un collegamento tra internet e gli apparati, cioè quello che non riesci a fare perché sei magari fuori copertura da un ponte, cose di questo genere, lo puoi fare tramite un'applicazione eccetera, e comunque sei sempre online, capito, sempre in rete con chi è in macchina, con chi è col portatile, con chi è... però qua proprio non c'è la cultura, capito, no? Lo vedono come se chissà che cosa, sono fissati con l'analogico che praticamente dappertutto lo stanno abbandonando perché alle cose moderne non va più bene, ecco, tutto lì, e sono fissati e vabbè, però poi alla fine non senti più niente, non c'è nessuno. Sai cos'è? Che l'apparecchio analogico è anche più facile da usare, quelli digitali c'hanno un menu, contro un menu, sotto un menu, che ci vede lunga di cosa, e non tutti sono addentrati a saperlo usare. Lo so, ma tieni presente che tutti gli apparati digitali sono anche analogici, quindi una volta che piano piano si avvicina, non sai cosa c'è molto, molto di voga, ma un po' in tutti i campi, oltre a quello anche amatoriale, che molta gente vuole la pappa pronta, però la pappa pronta se non c'è la passione, non... insomma devi imparare a cucinare, non si può mangiare. Molti invece a cucinare non vogliono imparare perché sono sempre, hanno l'abitudine di andare in negozio e dire voglio quello, te lo danno, su quell'analogico accendevi l'interruttore e eri già in funzione, magari bruciavi i finali però anche non attaccavi neanche l'antenna. Mentre invece in digitale devi sapere fare qualcosa, tutto lì, però insomma è così, c'è poco da fare. In continente vedo che è abbastanza attivo, c'è sempre, volendo io posso ascoltare, anche intervenire, però parli sempre con fuori, a Federico, ma tu sei sardo, come mai sei qua? Sono qua perché da me non c'è nessuno. Ho capito. Ma io guarda, per caso mi ha acceso gli apparecchi per fare scaldare, se no ho sentito l'altalino, anzi ho chiamato, non c'è nessuno su 10, gli ho detto ci sono io, perché cosa ti serve? Che cosa mi serve? Che entri qualcuno a parlare, non è che mi serve niente. Comunque, anche per gli SWL, cosa che non c'è nell'analogico, a parte in alcuni rari casi, il digitale è fruibile a tutti, ma a tutti veramente, anche a chi vuole solo ascoltare, perché c'è quello che in gergo si chiama dashboard, in cui ci sono tutti i ponti, tutte le utenze di tutto il mondo. Tu puoi sentire gli americani, clicchi di lì e senti gli americani che parlano via radio in real time, puoi sentire l'italiano che magari c'è qualcuno che conosci che te posso dire in Liguria, premi quello dalla Liguria di lì con un tocco di mouse e sei a posto e così via, capito? Puoi ascoltare tutti i vari ripetitori italiani, se c'è qualcuno, se questo, no, anzi italiani, mondiali, quella è una comodità perché non c'è più limiti. Questo è analogico, non si può fare. Vabbè. C'è chi si accontenta del poco, forse anche il fatto di spendere, adesso non ci sono più soldi che c'erano prima, uno sta attento alle nuove spese, ci sono persone che se lo possono permettere, non fanno tranquillamente, ci sono persone che non se lo possono più permettere di comprare roba costosa. Dipende da cosa prendi, ci sono radio obiettivamente molto costose, ma ci sono altre proprio digitali. Io ho preso qualche anno fa da Amazon un portatile che è sempre allo stesso prezzo, ho visto che costa 80 euro, devi vedere la radio che c'ha. Ce ne sono certi che costano 60 euro, capito, per ascoltare, per fare, e qua cosa ascolti? Non vedi nessuno, cosa ascolti? Per quello e quello ascolti via computer, non ti serve niente tra l'altro, perché è una pagina web normale, se ne vai sul sito, basta che tu digiti Brainmaster, ti appare il dashboard e li scegli, vedi tanti tanti nominativi che compaiono, ci clicchi su uno e poi l'ascolti. Vabbè, certo. Beh, Gianfra, io ti devo lasciare che è venuto teso a chiamarmi che vuole scendere. Quello quando vuole scendere perché deve fare, se no se la fa in casa. Va bene, mi ha fatto piacere fare questo questione. Purtroppo siamo rimasti soli tutta la sera. Che si vuol fare? È così da tutte le parti. Ci si tuffa dove c'è acqua, no, diceva quello. Comunque vedo che stanno arrivando i nuvoloni neri e anche aumentato un po' il vento da nord. Va bene Gianni, buona serata anche a chi ascolta e alle prossime. Ciao ciao. Ciao Gianfra, ciao. Ciao.